persi in un'idea. Dovresti rinsavire ormai, tu che vuoi qualche cosa di più, ma non sai più che cosa. Soffermati con me, avrei dovuto dirti, ma che paura c'è nelle parole, nel chiamarlo amore. Ieri tutto si mostrò nel suo splendore, Roma non fu mai per me più bella. Mi incantò il suono della voce tua, ma dentro me risvegliava un segreto, un desiderio di unità e di eludere insieme ogni re. Ego l'ho compromesso con il mondo, lascerai come sempre che sia lui il tempo a scegliere per noi, e poi tornare sui tuoi passi per rimpiangerla un po'. Ma così, quante ne hai viste andare via così, senza che il tempo ti rendesse un po' più forte, senza che il tempo ti rendesse appena un po' più forte. Così, quante ne hai viste andare via così, senza che il tempo ti rendesse un po' più forte, senza che il tempo ti rendesse appena un po' più forte.